Europa 24. Un saluto da Gigi Donnelli. Noi ripartiamo dalla Corte Europea dei Diritti Umani, che ha condannato l'Italia per il rapimento e la detenzione illegale dell'ex imam Abu Omar. Tenuto conto delle prove, la Corte ha stabilito che le autorità italiane erano a conoscenza che appunto Abu Omar fosse stato vittima di un'operazione di extraordinary rendition, cominciata con il suo rapimento in Italia e continuata con il suo trasferimento all'estero. Così la Corte. Italia intanto che rimane sotto osservazione a causa dei suoi squilibri macroeconomici, ma Bruxelles riconosce i progressi fatti su diversi fronti: mercato del lavoro, istruzione, pubblica amministrazione e banche, incoraggia Roma a fare ancora di più. Il servizio. Livello del debito e competitività decisamente sotto la sufficienza, voti positivi invece su riforme e privatizzazioni. Non sarà una pagella da primi della classe quella che domani Bruxelles consegnerà all'Italia e non solo, in attesa tra aprile e maggio dei numeri definitivi su crescita e conti. A preoccupare sempre il debito pubblico monstro. Ha toccato i massimi nel 2015 ma resta molto alto, così facendo blocca crescita e investimenti, scrive la Commissione secondo quanto anticipato dalla stampa. Altro punto dolente, le imprese. Fare business in Italia è più difficile rispetto ad altri big europei. Poi ci sono le inefficienze amministrative, nella giustizia civile, nella lotta alla corruzione. Nel mirino anche l'abolizione dell'IMU, l'innalzamento della soglia per il pagamento in contanti e le sofferenze bancarie, ancora troppo alte, anche se la situazione sta migliorando. Da qui le conclusioni. La modesta crescita e la debolezza strutturale italiane potrebbero avere rilevanti conseguenze sulle altre economie, avvertono i tecnici. Per fortuna qualche nota positiva c'è: il nostro è un paese che fa progressi grazie alle riforme di mercato del lavoro, banche e istruzione. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Crisi in Medio Oriente, nel Nord Africa, crisi dei rifugiati, questi due temi oggetto oggi della riunione che si è conclusa poco fa, tra l'altro rappresentante Federica Mogherini, gli eurodeputati della Commissione Affari Esteri. Tra i presenti si è toccato anche il tema del via libera dell'Italia alla partenza dei droni armati americani da Sigonella verso la Libia, ma è stato richiesto a gran voce un piano per il Mediterraneo a livello europeo. Sentiamo Stefano Maullo, eurodeputato del gruppo del Partito Popolare Europeo. L'Unione si muove anche attraverso i paesi aderenti. L'autorizzazione che il governo italiano ha dato per l'utilizzo dei droni è condizionata a una serie di specifiche. La prima è che devono essere utilizzati soprattutto quando le forze speciali sono in azione, quindi in attività di supporto, quando le stesse sono in difficoltà. È noto a tutti che noi abbiamo le nostre forze speciali in campo e mi riferisco al comando subacqueo incursori della Marina ormai da molti mesi, insieme alle forze speciali britanniche, francesi e americane. Io credo che intanto ci sia stato un atto di coraggio da parte del governo nello sviluppare questo genere di azione, ma non basta ovviamente a utilizzare le forze speciali. Credo che il lavoro politico debba essere accompagnato da un messaggio di speranza che solamente un grande piano per il Mediterraneo e per il Nord Africa può dare. Non esiste un antidoto diverso all'integralismo religioso e alla ricomposizione delle varie componenti libiche. Mette in guardia sui rischi di un intervento militare unilaterale Fabio Massimo Castaldo, europarlamentare del Movimento 5 Stelle. Interventi unilaterali senza avere una chiara valutazione di impatto di quelle che ne saranno le conseguenze, senza poi volersi veramente impegnare in una transizione, vogliono dire condannare un paese all'instabilità. In questo momento l'attacco all'utilizzo di droni da parte degli Stati Uniti ci fa temere che si sia entrati nel preludio di un'operazione militare, quando ancora un governo effettivamente in carica e capace di controllare il proprio territorio, di mettere d'accordo le varie milizie, si può dire che ancora non ci sia, sta semplicemente muovendo i primi passi e sta cercando in qualche modo di entrare in carica, ma siamo veramente in una fase del tutto preliminare. Ma soprattutto c'è il fondatissimo sentore, il rischio che un intervento militare occidentale nel paese possa portare non Daesh a indebolirsi, ma a diventare il faro e il catalizzatore di tutte le milizie islamiste presenti non solo in Libia ma anche nei paesi limitrofi. Ed è tutto per questa edizione di Europa 24. Naturalmente ci ritroviamo domani alla stessa ora. Un saluto. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.